24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno e ben ritrovati da Alessandro Milan in questa puntata di 24 mattino. Staremo insieme oggi fino alle 9.30 e da cosa partiamo? Oggi vogliamo raccontare intanto la storia di due ospiti, un po' insoliti se volete per questo orario, non sono le persone che spesso sentiamo, ma sono due persone, lo dico prima di presentarli, che a mio modo di vedere hanno sicuramente qualcosa di interessante da raccontare a tutti gli italiani. Spesso si dice che viviamo in un paese un po' rassegnato al declino, dove la situazione economica è difficile, si è persa l'idea di un progetto, di una speranza, di una fiducia per un domani migliore. Allora mi sono detto, dobbiamo chiamare due persone che saranno certamente anche in grado di dare qualche parola positiva ai nostri ascoltatori, due personaggi che sono abituati quotidianamente ad affrontare delle sfide, sfide anche estreme, sfide che possono apparire impossibili agli occhi di tutti noi e che invece sono sfide che ci aiutano a far fronte alle difficoltà quotidiane. Allora in studio a fianco a me ci è venuto a trovare Alex Bellini, che saluto e che presento. Buongiorno Alex e benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora Alex Bellini, classe 1978, di lavoro fa l'avventuriero, sì. Possiamo dire sì. Poi di che cosa si tratta. Vabbè, giusto per dirlo in due parole, è uno che ha attraversato l'oceano a remi. E chi non ha mai attraversato un oceano a remi? E chi non l'ha mai fatto? E tra poco cercheremo di conoscerlo di più, anche se il grande pubblico e il mondo lo ha già conosciuto. Voglio salutare invece al telefono con noi un amico di Radio 24, un altro che è abituato alle sfide estreme, Simone Moro, alpinista. Buongiorno Simone. Buongiorno Alessandro, buongiorno, ciao Alex. Ciao ciao. Eccoci qua, allora due persone che sono abituate quotidianamente, sì, o quasi quotidianamente, ad affrontare delle sfide estreme. Allora Alex Bellini ha attraversato appunto, come detto, l'oceano a remi. Per la verità Alex, che è un montanaro di origine, no? Valtellinese, nato ad Aprica, è uno che a un certo punto nella vita, nel 2004 più o meno, si è messo in mente attraverso l'oceano a remi, una di quelle cose che può apparire una follia. E all'inizio tra l'altro andò male, Alex. Molto male, sì sì, molto male. Cioè? E fu una grande fortuna che le cose andarono male molto, molto presto. Due tentativi falliti tra il 10 ottobre del 2004 e l'11 novembre del 2004, il secondo concluso con un naufragio dove rischiai veramente la vita. A Formentera, sì. La prima persona che incontrai a Formentera mi disse: tu sei il primo italiano che viene a Formentera d'inverno. Dico, ah, c'è ragione. La prossima soprattutto in barca. Soprattutto in barca, ma questo era un dettaglio che è trascurabile perché non aveva completamente compreso. E dico, furono momenti da benedire perché mi fecero immediatamente capire che le cose dovevano essere organizzate diversamente. Prima di buttarmi in un oceano dove semplicemente per venire a prendermi questo avrebbe necessitato insomma, un team di supporto molto, molto certo. Insomma, ben organizzato. E poi sì, poi una traversata dell'Atlantico e quella poi una traversata dell'Atlantico, sì, insomma, sai, detta così, una traversata da quanti chilometri sono o miglia nautiche? Se sono... Parlando in chilometri, furono 11.000 chilometri per l'Atlantico e 18.000 per il Pacifico. Cioè avete capito, 11.000 chilometri attraversati con una barca a remi in solitaria e 18.000 per il Pacifico. No, detto così come se fosse... Ma sai, è più facile farlo che dirlo. Effettivamente immaginarsi 18.000 chilometri, 11.000 chilometri quando uno parte è un po' difficile. Tra l'altro Alex Bellini ha scritto insieme a Riccardo Donadon e Paolo Costa un libro edito da Marsilio dal titolo L'avventura e l'impresa, proprio perché si vuole raccontare, sono un avventuriero Bellini e un imprenditore Donadon, si sono messi insieme per raccontare questi due aspetti fondamentali della vita di tutti noi. Fare avventura ma anche fare impresa. Sì, sono due mondi differenti, due stili o due punti di vista sullo stesso punto molto, molto differenti. Il libro parte raccontando due storie che apparentemente sembrano non unirsi mai. E poi pagina dopo pagina ci si rende conto che alla fine quello che anima un imprenditore è la stessa cosa che anima un avventuriero, così certo. come un alpinista, possiamo estendere a qualunque ambito e campo del fare umano. Si può dire proprio così come nel titolo, fare un'avventura vuol dire immettersi in un'impresa e fare un'impresa, un'azienda, vuol dire imbaccarsi in un'avventura. Assolutamente sì, assolutamente. Allora, tra l'altro, Simone Moro è un grande alpinista di fama internazionale. Io devo dire, Simone, ho chiamato sia te che Alex proprio perché vogliamo dare delle parole di incoraggiamento per una popolazione, per gli italiani che giustamente si sentono e vedono questa fase storica con un grande senso di sfiducia. Perché allora raccontare che si può fare, che invece ogni obiettivo è raggiungibile? Tu da alpinista come lo descriveresti? Ma innanzitutto bisogna avere un sogno. Perché se non si ha un sogno già tutto diventa più complicato e il sogno non è e non può essere, non so se io chiedo a una persona, ma mi piacerebbe avere successo oppure mi piacerebbe avere 3.000 euro al mese o 5.000 euro al mese, perché la mia risposta sarebbe sì, ma come? Perché tutti lo vorrebbero avere, ok? Ed è chiaro che se il cambiamento in un momento difficile è importante, importante deve essere il sogno ed importante deve essere la struttura e le gambe che devi dare un sogno. Dobbiamo anche parlare che i sogni di Alex Bellini e Simone Moro non sono di due pazzi asceti che vivono in una caverna, ma di due persone che hanno figli e hanno famiglia, e quindi il nostro progetto è anche un progetto imprenditoriale, deve esserlo. Abbiamo anche noi i nostri mutui da pagare, abbiamo anche noi tutte le tasse e tutte le difficoltà che hanno le normalissime persone, con la differenza che noi non abbiamo un prodotto da vendere, non è che io abbia, non so, una forchetta, un trasporto, un servizio. Fondamentalmente, cosa vendo Alex Bellini, cosa vende Simone Moro? Ma innanzitutto hanno un sogno e cercano di raggiungere questo sogno sapendo che hanno delle potenzialità di successo molto basso, tra l'altro, e quindi già questo dovrebbe giocare a sfavore, perché in un mondo dove bisogna essere tutti belli, abbronzati, vincenti e tatuati, uno che va e vuole andare a attraversare l'oceano a remi, uno che vuole scalare una montagna, sembra l'idillio dell'inutilità. E invece proprio non è così, non è così. È esattamente come un grande imprenditore che ancora oggi ha voglia di fare queste realizzare questi grandi sogni perché ci crede. Allora, quando tu hai un sogno e ci credi, innanzitutto non c'è limite e non ci deve essere limite nell'energia erogata ed erogabile. Ma infatti, Simone, prima Alex mi diceva alla domanda, io ho detto sicuramente ti farò questa domanda, che un po' tu hai già risposto a questo, cioè perché attraversare un oceano a remi? E Alex già mi ha anticipato la risposta che adesso dà a tutti, e dire questa domanda è sbagliata. Perché, Alex, è sbagliata questa domanda? Beh, perché se ci si concentrasse sul perché fare una cosa che non ha senso, dopo tutto, no, perché bisogna attraversare un oceano a remi, che non rende il mondo un posto migliore, una traversata di un oceano a remi, non rende un mondo più vivibile per la mia famiglia, un oceano a remi, anzi mette fortemente in crisi anche la stabilità di una famiglia, comunque stiamo spesso via, l'indeterminatezza regna sovrana nelle nostre famiglie. L'essere umano però dà valore alle cose ed è così abile a dare valore alle cose che a un certo punto ci si riconosce completamente, e quando allinei la tua vita con quello immaginato o l'immaginabile del tuo futuro, ecco che automaticamente diventi veramente un tutt'uno, e questa sorta di allineamento e di centralità tra te e l'obiettivo a cui hai dato valore rende realizzabili le cose che così da fuori sembrano impossibili. Che è lo stesso motivo per cui si potrebbe dire Simone Moro perché si scala una montagna. Per la verità, Alex l'ha messa una frase, credo, di Messner, non so se tu te la ricordi a memoria, Alex, nel libro. Cioè, ricordamela. Messner dice: arrivo lassù per guardare più nel profondo della mia anima. Credo che sia questo il senso. Sì. Simone, è un po' questo il senso. Si potrebbe dire perché partire, ma andare. Si può rispondere anche con una domanda. Sì. Perché dico, perché ci si innamora? Ha una convenienza a innamorarsi? No, è una pulsione irresistibile. E siccome l'amore, lo continuiamo a dire, è la cosa più bella, tante volte diciamo è l'unica che ci è rimasta, per gioire ed essere sereni. Ecco, siccome la serenità non deve essere un accessorio della vita, ma dovrebbe essere il perno su cui ruota tutto, se scalare una montagna, se attraversare un oceano, se fare impresa, se dedicarsi a una missione, se dedicarsi a un profilo di studio ti rende felice, ti rende anche un padre felice, un uomo felice, un imprenditore felice, e questo è un sentimento contagioso. E cosa c'è di meglio? Quindi, però Simone, abbiamo... quando tu sei felice a fare qualcosa, tu sei anche produttivo, ma sei contagioso anche in questi valori, sei anche educativo. Ma guarda, voi non dovete convincere me, io infatti sono già contentissimo di avervi chiamato per far ascoltare queste parole ai nostri ascoltatori. Però Simone, dicevamo, il raggiungere un obiettivo spesso passa attraverso delle sonore sconfitte, dei sonori schiaffoni. Alex diceva, io li ho ricevuti all'inizio, quando da Montanaro ho detto attraverso l'oceano, la prima volta sono durato 6 ore e dopo 6 ore ho dovuto rinunciare, che voglio dire, poi ci racconterà il senso di questo fallimento totale. Tu quante volte hai dovuto rinunciare a una missione preparata magari per mesi, Simone? Circa il 30-35%. E cosa si prova in quel momento? Ma innanzitutto la sconfitta è la posticipazione del successo. Già questa è una chiave di lettura mostruosa che cambia la prospettiva. Non vuol dire che fallire si è dei falliti come delle persone, si è sconfitti. Se uno guarda una gara olimpica di salto in alto, anche chi vince, anche chi fa record del mondo, non la passa sempre al primo tentativo questa cavolo di asticella. E quindi perché la vita di un avventuriero dovrebbe essere diversa dalle dinamiche della vita? Quindi io quando sbaglio, quando Alex ha sbagliato, ci si siede, si analizza dove si è sbagliati e si riproietta il progetto, si rilancia il progetto con i giusti accorgimenti, e poi magari si può ancora fallire. È una dinamica della vita. Invece noi ci facciamo sempre schiavizzare o dall'articolo del giornale che scrive fallita la spedizione D oppure perde la partita X, come se uno fosse solo vince, come se uno fosse destinato sempre solo a vincere. Alex, che cosa hai provato tu quando nel 2004, ti faccio magari vivere dei momenti che sicuramente sono stati salutari ma dolorosi, quando nel 2004 dopo 6 ore praticamente hai dovuto abbandonare ogni speranza nel primo tentativo? Beh, l'effetto, il primo effetto di queste scosse è che mettono mentalmente in dubbio tutto ciò che hai costruito fino a quel momento lì. L'avversità di per sé è un'ottima occasione per mettere in dubbio e per cercare di, no, come diceva Simone, di analizzare la situazione, levare ciò che non serve e sostituirlo con qualcosa che invece può venire utile in futuro. Ed è un'ottima occasione. La crisi, l'avversità è qualcosa di cattivo da perdere, cioè non possiamo perdere queste risorse. Ci vuole una grande forza d'animo, cioè ce la devi fare, perché ci sono persone che di fronte a una crisi, di fronte a una sconfitta si lasciano andare. Ci vuole una grande predisposizione d'animo a dire trasformare questa sconfitta in una ripartenza. È una scelta, non è difficile, puoi scegliere, e quando hai scelta è una tua facoltà. Certo che io ho imparato due cose navigando per mare. Uno, che ci sono delle cose che puoi controllare, cose che invece non puoi controllare. Decidi tu su cosa vuoi concentrarti. Due, che qualunque cosa ti succeda nella vita, sei sempre tu a decidere come vederle. Come una amara sconfitta oppure come l'inizio di una nuova... il seme che dà, no, che dà vita ad una nuova pianta, ad un nuovo futuro. E da queste due cose, da questi due parametri, io ho deciso di scegliere sempre per quella positiva. Perché comunque no, la scelta è concentrarci sulle cose sbagliate. 24 mattino. Eccoci nuovamente, cari ascoltatori, siamo con Alex Bellini, avventuriero, uno che ha attraversato l'oceano a remi, in barca a remi in solitaria. Siamo con Simone Moro, alpinista, che gli amici di Radio 24 conoscono. Allora, io come detto vi ho chiamato anche per parlare un po' a un paese, l'Italia, e agli italiani, un popolo che sono abbastanza scoraggiati, inutile negarlo. Tu, Simone Moro, vivi spesso all'estero, Alex Bellini vive in Inghilterra adesso, quindi avete uno sguardo che mi pare molto interessante, a mio modo di vedere, sul nostro paese. Intanto vi chiedo, Simone Moro, ha ancora senso il concetto di italianità come elemento positivo quando vai all'estero? Beh, è addirittura l'elemento che fa la differenza in tutto. Faccio tre esempi. Siamo al campo base di una spedizione X del paese Y sperduto. Si spacca il generatore di corrente, si rompe un pannello solare, si squarcia una tenda. Alla fine l'unico che riesce sempre a ripararlo al volo, chissà perché, è l'italiano di turno. Secondo esempio, si rimane senza mangiare. C'è una mela, l'unico che fa metà della mela e la offre agli altri siamo sempre noi italiani, ok? Terzo esempio, se è una situazione critica, il livello di tensione è alto, l'unico che riesce a regalare una battuta o un sorriso e quindi quello che riesce a mettere di buon umore e lasciare lucida la situazione, chissà perché, è sempre un italiano. Gli italiani hanno una marcia in più e ne hanno tre in meno. La marcia in più sono quelle che ho detto, le tre in meno, tutte concentrate, sono sempre che pensano che quelli bravi sono sempre gli altri. E quindi la macchina più bella è per forza quella straniera, l'avventuriero più bello è per forza quello straniero, la maglietta più di moda deve essere per forza di una griff straniera, il profumo anche, il vino anche, e così via. Ma non siamo in grado di valorizzarci, questo zero, non... zero. E questo sono degli autogol atomici che ci facciamo. Io non ho mai avuto vergogna di dire che sono italiano e non mi hanno mai deriso, anche perché la gente le guarda in faccia e mi racconto non tanto solo per un sorriso o per la barzelletta, ma mi racconti, mi faccio vedere anche per quelle altre tre cose che so fare al campo base, e quindi sei una persona da rispettare. Certo. Noi quando siamo all'estero siamo, o se andiamo da turisti, se vediamo un italiano non gli parliamo assieme. Se parliamo dell'Italia descriviamo solo gli aspetti brutti. Cacchio, questi sono gli autogol atomici, i francesi non fanno così, direi. Non siamo in grado di valorizzare il nostro prodotto. Alex Bellini, che è andato a vivere in Inghilterra perché da lì c'è una prospettiva anche dal punto di vista dell'avventuriero ben diversa dall'Italia, mi raccontavi prima di andare in onda. Questo perché? Per la prossimità con persone con cui mi posso relazionare direttamente. Laddove c'è cooperazione con persone c'è sempre la tendenza a fare qualcosa di migliore. In Italia soffrivo molto la mancanza di un contatto diretto con persone con cui potessi attivare una collaborazione, per esempio. Questo mi isolava molto da quello che per me era il punto di riferimento, quindi il Nord Europa, dove invece quando parli di avventura sanno esattamente di cosa parli. Io sono considerato spesso uno scavezzacollo o uno che non ha voglia di lavorare. Invece... Infatti nel libro racconti, no? Dici: che lavoro faccio? L'avventuriero. Sì, ma veramente il tuo lavoro qual è? E questa è la controdomanda che ti fanno. Si ragiona spesso per no, categorie. A che categoria appartieni? Beh, se non sei né una né questa né quest'altra vuol dire che mi stai nascondendo qualcosa. E quindi no, invece... mancando della possibilità di essere riconosciuto come un professionista non si viene neanche valorizzati come professionista. Questo in Inghilterra invece accade. Questo in Inghilterra accade perché la storia dell'Inghilterra racconta veramente di personaggi che sono i miei riferimenti, che hanno segnato epoche passate. Però mi interessa capire anche lo sguardo che avete sull'Italia vista dall'esterno, no? L'Italia raccontata tutti i giorni qui ai microfoni di Radio 24 è davvero un paese dove sembra tutto molto sfilacciato, molto, dove la delusione, dove la rassegnazione prende il sopravvento. Simone, tu come la vedi anche dall'alto delle tue vette, insomma, questa ti arriva questa percezione di un paese un po' dove si respira un'aria purtroppo negativa? Beh, innanzitutto credere che il potenziale sia per forza al di fuori di noi, al di fuori del nostro paese, è già un limite. Semmai noi andare all'estero facciamo la differenza anche all'estero, ma la prima differenza dovremmo farla a casa nostra, perché se mi viene, se penso che a Las Vegas hanno ricostruito le bellezze d'Italia e ci fanno i soldi portando in giro a vedere le cose finte che noi abbiamo in Italia, ecco, e se quindi l'Italia fosse di proprietà di un altro paese avremmo ciò che nessun altro ha e potrebbe già di per sé stesso rendere, quindi parlo già di cultura, di storia e di turismo, e invece la cultura, la storia del turismo sembra che l'abbiamo fatta agli altri o dobbiamo darla in pasto agli altri. Questo è la prima caratteristica. Secondo, lì è proprio nel DNA italiano, siamo più portati alla lagna e all'attesa della manna dal cielo e da chi si deve liberare da questa situazione, che non essere noi protagonisti. E quindi invece di lagnarsi, bisogna spaccarsi un po' la schiena, prendere un po' in mano la situazione. Certo. Sì. Mi raccontate cosa vuol dire? Parliamo anche un po' delle vostre imprese, delle vostre avventure. Uso questa espressione assolutamente non in modo riduttivo. Per esempio, Alex Bellini, cosa vuol dire la solitudine per te? Insomma, attraversare un oceano a remi da solo per 18.000 chilometri vuol dire stare per giorni e giorni in compagnia di se stessi. Sì, per me è un grande lusso, veramente è uno dei più delle ricchezze maggiori che ho nella mia vita, potermi così dedicare un attimo o più o meno lungo a me stesso. Questo mi mette automaticamente in una modalità ascolto, silenzio. E se sei in silenzio e non parli, gli altri quattro sensi vengono sviluppati e viene anche sviluppato il senso di analisi che fai su te stesso, su quello che sei o quello che eri. E parliamo molto invece, generalmente parlando, si parla molto, si vuole coprire il silenzio perché il silenzio è disagio. Invece il silenzio è la strada più veloce per tornare a contatto con te stesso, che con i tuoi valori. Immagino che anche nel pieno dell'oceano non esista mai il silenzio. No, assoluto. È un'illusione, è veramente un'illusione. E nel silenzio più assoluto ti rendi conto che ti stordisce tutto questo silenzio. Senti il meccanismo dell'universo che si muove e questo ti fa pensare ad un livello di consapevolezza diverso. La stessa questione per Simone, che vuol dire essere solo per giorni e giorni? Spesso tu non sei da solo, ma a volte sì. Sì, no, sono esattamente d'accordo con le parole che ha detto Alex. È veramente un privilegio, tra l'altro è un privilegio gratis, che ogni tanto dovremmo regalarci, visto che adesso non abbiamo più soldi in tasca. Prendere e andarci a fare una passeggiata in montagna, una passeggiata da qualche parte, una camminata da soli. Invece noi andiamo sempre a fare jogging con qualcuno, se no non c'ho voglia, devo fare il corso di karate con qualcuno, devo giocare a basket, devo stare in fila, devo stare in auto, devo accendere la radio. Quindi non ci regaliamo mai gratuitamente un momento in cui sto con me stesso. È l'opportunità di guardare e di guardarsi, di ascoltare e di ascoltarsi. Ed è anche il momento dove vengono un sacco di belle idee, perché le idee, i sogni, vengono evocati nel momento in cui posso dedicarlo a quello e non può essere solo la notte. Perché la notte io evoco i sogni che sono irrazionali. Certo. Quelli invece razionali, che sono progetti, e quelli devo farlo nella fase vigile. E per farli bene devo essere un po' da solo. Quindi oggi magari regaliamoci anche un po' di solitudine. Di sana solitudine. E da quella ci accompagna al silenzio. Alex Bellini, fare un'impresa o affrontare un'impresa, tu nel libro addirittura scrivi chiunque potrebbe attraversare un oceano a remi, una frase che messa così fa abbastanza scalpore. Quanto e in che cosa aiuta nella vita quotidiana poi? Beh, ovviamente è una provocazione perché talvolta quando hai un riferimento così... No, così fuori dagli schemi, ti sembra qualcosa di irraggiungibile. Invece il mio proposito nella vita è proprio il contrario, cioè far percepire le possibilità alle persone. Certo, tutti quanti potrebbero attraversare un oceano a remi se fossero disposti a impegnarsi tanto quanto mi sono impegnato io, a sacrificarsi, a correre qualche rischio, anche a costo di perdere tutto. Beh, questa è la metafora della vita, cioè ottenere un obiettivo ma non gratis. Esattamente. Altrimenti, come dire, sarebbe... E avere un piano, perché ho scoperto che la differenza tra un tentativo in cui puoi potenzialmente perdere la vita e un tentativo invece che ti può portare veramente alla conquista di qualunque cosa, anche meno materiale, la differenza sta proprio nella capacità di crearsi una strategia. Questo è un tema molto interessante perché, Simone, molte persone vanno in montagna in questa stagione e quante volte abbiamo fatto il discorso di persone che affrontano la montagna così come se fosse andare a fare una passeggiata e pensano di andare a scalare l'Everest e poi purtroppo succedono anche tante tragedie, insomma. Alex ci dice strategia, pianificazione. La differenza tra i suoi primi tentativi falliti e quello che è stato l'Alex Bellini dopo è che quegli schiaffi gli sono serviti per capire non si fanno le cose a cuor leggero. Esattamente come quando facciamo un percorso universitario. Noi partiamo tutti pimpanti, magari siamo andati bene nelle scuole superiori e non sappiamo gestirci strategicamente anche il nostro percorso di studi e magari il primo esame va male, oppure vanno bene i primi due, poi va male il terzo e il quarto. Questi sono dei fallimenti a cui alcuni reagiscono piangendosi addosso e dicendo no, non sono fatto per lo studio, sono una frana, devo andare a lavorare. Chi capisce che invece non poteva studiare all'università come studiava alle superiori. Le strategie servono in tutto, servono anche nella conduzione familiare, servono nella pianificazione anche del proprio bilancio familiare, sia nello sport e quindi anche nell'avventura. C'è da dire una cosa, Alessandro, non abbiamo parlato fino adesso, anche se è pregnante, il concetto di esplorazione. Allora, ognuno è chiamato ad esplorare un po' la propria vita, cioè ad essere anche protagonista del proprio di film e non essere invece solo una comparsa. Cioè, noi di solito ci vediamo più portati a recitare un copione che qualcuno ci deve passare. A vivacchiare, diciamo. Ok, o un compito, qualcuno deve avere il compito da fare. Poi una volta che ho fatto il mio compito, questo mi dà una tranquillità morale perché io ho fatto il mio e quindi è giusto che io debba avere i servizi, lo stipendio, il salario, non posso avere un insoluto, le tasse devono essere quelle giuste. Ecco, quindi siamo più gente da copione che non da sceneggiatura e da regia. Oggi i tempi si impongono di essere registi e registi creativi, e noi quello abbiamo una grande forza. Mi veniva anche da pensare anche nella storia dell'esplorazione, parliamo dell'America, dell'Inghilterra, così, ma è stato un certo Cristoforo Colombo che ha detto che voleva scoprire l'America. In Italia Landeriso ha trovato gli sponsor in Spagna, la metto così, è andato e tornato dalla Spagna. Gli sponsor in Spagna non è male. 24 mattino. Eccoci qui ancora con Alex Bellini e Simone Moro. Allora, abbiamo parlato di solitudine. Alex, ti chiedo anche il senso della paura, cioè questo concetto molto umano che immagino tu abbia provato anche tante volte quando hai rischiato anche la vita in alcune occasioni. Che rapporto hai con la paura? Un rapporto molto intimo perché è l'unica costante. Quotidianamente ha a che vedere, ha a che fare con situazioni che mettono seriamente in pericolo la tua vita. Quotidianamente ci sono alcune aree del cervello, l'ipotalamo, che ti avvisa che c'è una situazione che potenzialmente è una minaccia, e quindi automaticamente per istinto di preservazione scatta la paura, il che proprio è una misura, ti dà il metro di quanto sei fuori da quello che fai abitualmente. Proviamo paura nelle piccole cose, quando ci spingiamo a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto prima e quindi ci approcciamo all'ignoto. Se noi non provassimo paura, non ci sarebbe un'evoluzione nell'uomo. Invece se di tanto in tanto, proprio periodicamente, provassimo un piccolo senso di paura, avremmo il piacere di scoprire che noi stiamo evolvendo come persone. Domani la cosa che ieri ti faceva paura non ti fa più paura. Certo. O meglio, magari ancora sì, però un pochettino meno, perché sai che la puoi gestire. È un senso dell'esplorazione a cui facevi riferimento tu, Simone. Anche tu hai avuto paura ovviamente tante volte. Il tuo rapporto con questo sentimento? È l'attrezzo più fedele, più importante da non dimenticare a casa, perché è una sorta anche di contachilometri che ti fa capire e ti fa intuire quando è il momento di fermarsi o quando non è ancora il momento, oppure anche ti fa percepire in maniera anche istintiva, animalesca, una sorta di autoconservazione, fino a dove ti puoi spingere. E il fiuto non è che serve solo nell'oceano o in montagna, serve negli affari, serve nei sentimenti, serve nelle scelte di vita, di studio, e bisogna tenerlo allenato. È chiaro che se uno non ha paura di nulla, a parte che campa poco, ma è destinato a vagare senza nessun tipo di raziocinio, perché uno non ha paura di niente, passa di palo in frasca da una scelta a una opposta. È una sorta di guida la paura. Certo. Quindi bisogna pensarla che non è un limite, è addirittura una virtù. Ovviamente non deve degenerare in panico. Questo assolutamente, altrimenti l'autocontrollo, però non ha un'eccezione negativa il concetto di paura. Tra l'altro, parliamo un po' di immediato futuro, un futuro che in qualche modo vi accomuna, nel senso che vi ritroverete nella neve entrambi, perché Bellini abbandona per il momento il mare. Per sempre, tu, possiamo dirlo. Per sempre. Tu Simone in partenza per il Nanga Parbat, ennesima scalata. Sì, parto per il Nanga Parbat, vado a tentare la prima invernale della storia di questa montagna. Ci sono già quasi tre decenni di tentativi, tra cui uno anche mio tutti respinti da questa gigantesca montagna, sono rimaste solo due di 8.000 metri ancora inviolati d'inverno, e questo è il progetto alpinistico. E poi c'è l'altro mio progetto, che è anche imprenditoriale e non alpinistico, che è quello di continuare il mio progetto di pilota di elicottero in Himalaya, visto che sto mettendo in piedi questa sorta di elisoccorso per la gente locale e anche per i turisti e gli alpinisti, e questo è già un'altra sfida, un'altra follia, mi piace dire anche più difficile rispetto che scalare l'Everest. Avevo questo sogno, l'ho avuto in questi tempi di crisi economica, mi hanno detto tutti che era impossibile, io non sono un magnate e un ricco, eppure il progetto è partito e l'ho fatto tutto da solo. Come vedete, proprio avventura e impresa sono un binomio indissolubile. Invece Alex Bellini, la prossima tappa o la prossima sfida si chiama Groenlandia, un qualcosa che cosa ti porterà a fare? Sì, ora farò ridere molte persone. Sopravviverò nel 2015, quindi nella primavera del 2015, su un iceberg fino al suo completo scioglimento. Lascio il tempo alle persone che hanno cominciato a ridere. No, perché questa, molto. Sì, no, è molto curioso e sto avendo da questo progetto grandissima soddisfazione, però al momento può lasciare un po' interdetti. Questo è un proposito ovviamente di avventura, di mettere un pochettino il naso là dove ancora non si è stato messo, viaggiare rimanendo fermo, perché su un iceberg rimarrò praticamente fermo. È un proposito anche sociale, scientifico, in quanto porteremo un contributo piccolo, dal mio punto di vista, perché da tanto già si è detto, circa il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. Quindi documenteremo tutta la fase di vita, l'ultima fase, quella che destina il ghiaccio a tornare acqua. Beh, mi sembra che invece la tematica sia molto attuale, al di là dell'idea effettivamente che posta così, rimango su un iceberg, scenderai poco prima che si scioglie, ovviamente. Sì, sì. Allora, vi devo chiedere qual è l'incontro più assurdo o più bello che non scorderete mai, che avete fatto nelle vostre avventure, Alex? Sai, io scelgo delle situazioni che mi mettono in uno stato di isolamento, e la persona più strana che abbia conosciuto... Incontro. Me stesso. Veramente ogni tanto mi rendo conto di essere una persona completamente differente da quella che credevo di essere. E questa è la cosa più affascinante. Tu, Simone, che incontro non scorderai mai nelle tue... Tre incontri con tre persone in tre momenti diversi, in tre luoghi diversi, che tutti e tre mi avevano detto che avevano visto lo Yeti. Lo Yeti esiste, quindi lo Yeti esiste. Che queste persone mi hanno detto che avevano visto lo Yeti in tre momenti diversi, in tre momenti non della stessa giornata. Che poi come lo descrivono? Me lo descrivevano nello stesso identico modo, cioè? Tutti alle stesse domande, quindi nessuno sapeva che avevo fatto le stesse domande, anche specifiche, non so, se c'era la capacità di prensile delle mani, se stava in piedi, come camminava, quanto era alto. Tutti mi hanno sempre risposto alla stessa maniera, e questo mi ha dato la certezza che bisogna dimostrare scientificamente che qualcosa esista, ma bisogna dimostrare scientificamente che qualcosa non esista. Allora, io l'ho recuperata la frase che tu citi nel libro, Alex. Messner dice: volevo salire in alto per arrivare con lo sguardo in fondo alla mia anima. Ma io chiedo, chi trovi nel cuore dell'oceano? Ma quello di cui si parlava proprio pochi secondi fa. La mia attività non è differente da quella di un sommozzatore che si mette la tuta, le pinne, il boccaglio, la maschera e si infila nelle profondità di un oceano. E la metafora con se stessi. Poi io credo fortemente che l'avventura sia una sorta di autoesplorazione. Non conquisti niente, conquisti semplicemente un po' di consapevolezza che riguarda te stesso. Ma conosci bene te stesso, ma la domanda che voglio fare a entrambi è questa: trovi Dio e credi in Dio? Credo in Dio a mio modo, credo in Dio quando pesco un pesce dopo 5 giorni di digiuno, credo in Dio, credo che esista un Dio quando si placa la tempesta dopo giorni e giorni di frullamento. Diciamo il Dio identificato come natura, forse, come forze della natura. Faccio fatica a riconoscerlo come una forma antropomorfa, quindi non lo rivedo sotto una forma di essere umano, mia immagine e somiglianza. Più un'energia, so che c'è un ordine, a quest'ordine diamo do in questo senso qua la parola a Dio, ed è proprio scarica la responsabilità su tante cose. Ci sono delle situazioni in cui ti rendi conto che da solo non ce la puoi fare, allora automaticamente ti affidi a quest'ordine che sappia condurti passo passo lungo e attraverso e oltre quegli ostacoli e quelle minacce che sembrano insuperabili. Simone Moro, nell'immaginario collettivo e banale si potrebbe dire che insomma tu ti avvicini un po' più a Dio di noi, se Dio esiste, andando lassù. Tu che percezione sì, hai? La montagna è stata proprio identificata come la metafora dell'avvicinamento a qualcosa che noi non riusciamo a capire. Io sono d'accordo con quello che dice Alex. Io una volta, e più di una volta, dissi: da lassù vedo la mano del grande architetto. Allora, detto così, gli ho dato perlomeno già una connotazione umana, in modo da far capire al volo il messaggio che volevo dire. Entrando nello specifico, capisco e percepisco anch'io che non siamo solo due gambe, due occhi, la luce, il buio, le tempeste e il bel tempo. Percepisco che ci sono delle dinamiche, delle energie molto più grandi, che non sono in conflitto, ma sono parte della natura, e quindi noi siamo parte di queste energie. Sono delle energie non maligne, credo quindi in Dio, anche perché Dio lo abbiamo voluto dipingere, lo abbiamo voluto spiegare, gli abbiamo dato una connotazione umana, non è decisamente così, però è una bella percezione, perché ti fa capire che nulla è casuale, qualcosa è iniziato prima e qualcosa è iniziato dopo la nostra presenza fisica. Insomma, l'energia e la materia non è che si crea o si distrugge con la nascita e la morte di un uomo. L'energia è qualcosa di diverso. Ed è una cosa che ho scoperto, meglio, ho trovato anche delle conferme e continuo a trovarle anche in montagna. Allora, io vi ringrazio tantissimo di Alex Bellini, voglio ricordare ancora il libro, se volete leggere qualcosa è in libreria, L'avventura e l'impresa, edito da Marsilio, per approfondire anche la figura di Alex Bellini e di Riccardo Donadon, che è un imprenditore, e appunto il titolo L'avventura e l'impresa, fa le cose ma anche tu fai le tue cose. Di Simone Moro, che dobbiamo dire, il solito augurio, il solita cosa che si dice, porta a casa lo zaino, no? Questo è il... Innanzitutto di leggere anche il mio quarto libro. Bravo, approfittane. In modo che vi regalate il titolo, che non ce l'ho qua. Everest in vetta a un sogno, il racconto dell'Everest anche come metafora della vita, quindi racconto tanto di quello che abbiamo raccontato oggi. E poi sì, cercherò di portare a casa lo zaino con le mie gambe dal Nanga Parbat. Certo. O senza la vetta. Certo, e questa è la cosa più importante. Grazie. Tanti anche auguri, Alex Bellini. In bocca al lupo per la Groenlandia, invece, anche se l'obiettivo è un po' più lontano. 2015. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, la puntata di 24 mattino di oggi in onda fino alle 9.30 la chiudiamo con una chiacchierata con un osservatore attento della politica della società italiana, un filosofo. Si tratta del professor Massimo Cacciari, che saluto. Buongiorno professore, eccoci. Buongiorno a lei. Senta, potremmo parlare di politica di questa Italia discretamente sulle ginocchia, e lo faremo tra poco. Io però vorrei partire con lei a fare alcune considerazioni su un evento che quest'anno ha avuto un eco mondiale, certamente, vale a dire l'elezione di Papa Francesco. Intanto le chiedo, lei come ha reagito quando ha saputo che Ratzinger si è dimesso? Beh, mi è capitato più volte di dirlo, insomma, è stato un gesto di significato simbolico straordinario. Sono quei gesti che fanno epoca, come si vuol dire, come si soleva dire, che ha vari significati e polisenso. Certamente vi è un elemento che concerne anche la stanchezza e probabilmente cocenti delusioni patite dal personaggio. Vi è una dimensione anche di grande umiltà, nel senso di una consapevolezza di non potercela più fare a portare quella croce. Vi può essere anche un significato di denuncia rispetto a certe insufficienze della Chiesa, della cerca più stretta dei suoi collaboratori. Vi può essere anche il senso di dare un messaggio di radicale umiltà al mondo contemporaneo. I significati possono essere possono essere diversi, ma tutti di grande rilievo. Però il mondo e la gente comune non era mai stata abituata nella storia alla appunto cocente delusione, come dice lei, o alla umanizzazione di una figura come quella che può essere quella di un pontefice. Beh, sì, le figure del pontefice di solito sono figure di principi della Chiesa, ecco, si avvicina di più alla figura del principe il pontefice che non alla figura del minore, ma invece è chiaro che Papa Ratzinger e poi in modo ancora più esplicito il suo successore intendono indicare alla Chiesa proprio la strada dei minori, nel senso francescano del termine. A proposito di francescani, appunto il nuovo Papa, l'attuale Papa, coi suoi modi si può dire che ha conquistato un po' tutti, ma intanto a lei piace questo suo essere pop, essere vicino alla gente, essere... Ecco, lei lo chiama pop, vuol dire che ha sbagliato, è chiaro, è chiaro. Se l'impressione che dà la gente è quella, e temo che in parte la stia anche dando, è un'impressione che contraddice il senso della umiltà e dell'essere minore di Francesco. Francesco non è una figura pop, è una figura semmai popolare, nel senso che è una figura radicalmente laica, che sta nell'Aus, che sta nel popolo, che sta in mezzo alla gente, che non è un sacerdote Francesco, come è noto. Quindi radicalmente laico da questo punto di vista, ma certo che deve essere sempre una persona paradossale, cioè che manifesta la paradossalità di una vita radicalmente evangelica. Il paradosso vuol dire essere al di là dell'opinione comune, essere al di là del pop, cioè, perché il pop è il popolare e anche l'opinione comune. Quindi se manca questo elemento di radicale paradossalità, e se una figura, diciamo, francescana è compresa così semplicemente da tutti, beh, allora trasmette di sé un'immagine superficiale o trasmette di sé soltanto la sua superficie. E quindi questo è un rischio che secondo me Papa Francesco corre, perché Papa Francesco sicuramente ha a che fare con tutto il discorso che abbiamo fatto prima, e quindi è proprio una figura epocale anch'essa, però corre il rischio, per certi versi un rischio opposto e contrario a quello che correva Papa Wojtyla. Papa Wojtyla è un grande principe della Chiesa, un papa sotto certi aspetti veramente come i grandi papi medievali, ma anche lui trascinatore, anche lui demagogo, diciamo così, nel senso etimologico del termine. E questo, c'è il rischio che diventi popolare e perda di paradossalità. Non crede, professor Cacciari, che nel comportamento di Bergoglio ci sia anche un po' di conformismo? Nel senso, tutti lo dimenticano, ma il Papa attuale è un gesuita, la Compagnia di Gesù non è mai stata troppo amata nella storia. Sì, però è un gesuita che si è chiamato Francesco, quindi un gesuita che non solo vuole fare la pace nella Chiesa tra le sue grandi correnti, proprio spirituali più radicate, più antiche, ma anche uno che appunto Francesco, vuol dire vita evangelica, vuol dire indicare alla Chiesa quel modello come un modello da seguire, da sforzarsi di seguire, e che è un modello paradossale e radicale rispetto al secolo, rispetto al mondo. Quindi questo è la... Questa è la prospettiva che Papa Bergoglio indica, chiamandosi Francesco, non vi è dubbio alcuno, e la indica consapevolmente. Tuttavia il secolo è un secolo che divora, è un secolo che ha una capacità di liquidare anche i messaggi più forti, che ha dell'incredibile, e quindi il rischio c'è, il rischio esiste appunto, il rischio pop esiste, c'è. Peraltro le chiedo, questo atteggiamento, essere così vicino alle persone, secondo lei avvicina le persone alla fede? Perché poi il senso più profondo della religione è quella del proselitismo. Probabilmente avvicina le persone a questa figura, esattamente, che è una cosa diversa, tra altri versi le avvicinava a Wojtyla. Che poi avvicinandosi a Francesco si possa avvicinare anche alla fede, che Francesco fosse una figura che convertiva anche, è così, ma Francesco appunto, quindi occorre che Papa Francesco sia davvero Francesco, ecco questo io dico, occorre che sia davvero Francesco, e non sia Francesco semplicemente mettendosi a disposizione dell'altro, non è così semplice e immediato, anche se mi pare che Papa Francesco si sforzi esattamente in questa direzione, ma ripeto, è la forza corrosiva di questo secolo, dei media, delle chiacchiere universali, che ci corrompe, che corrompe tutti, che corrompe anche il discorso più forte. Secondo lei, da un punto di vista filosofico ma anche pratico, in tempi di crisi le persone cercano più il contatto con una dimensione altra che può essere quella della religione, oppure no? In tempi di crisi cercano consolazione, la reazione prima è quella, tentativo di cercare madri consolanti, grembi consolanti, e quindi certo si può tornare anche, come diceva quel tale, nel grembo delle antiche chiese, ma non c'entra niente con una dimensione autenticamente religiosa. Una dimensione autenticamente religiosa è l'opposto di una dimensione consolante, è ascesi, è sforzo, è fatica, e volontà anche di conoscere. In momenti di crisi la reazione più naturale, più popolare è l'opposto, è una reazione che cerca assicurazione. Questo è nel nostro paese, un po' in tutto il mondo, almeno occidentale, non solo, la ricerca di qualcosa che ci assicuri. Sono finiti le antiche potenze, sembrano finite, sembrano non farcela più a tenere, e si cerca qualcuno che riesca ad assicurarti. In cambio di questo venderesti anche la tua libertà, eccetera. A proposito, è una vecchia storia, cioè tutto, nulla di nuovo sotto il cielo. È la religione consolante, diciamo, non la religione come profonda ambizione. Senta, venendo appunto all'Italia, questa Italia in crisi, di recente il Censis ha definito il nostro paese un paese scialbo, malcontento, che però sopravvive. Certo, ma un paese che sopravvive in modo scialbo e malcontento, che futuro ha? Nessuno, ha un futuro di lenta decadenza. Quanto possa durare questo tramonto, questa decadenza, nessuno lo può dire, può durare anche 100, 200, 300 anni, ma è decadenza. Si può cadere rapidamente, si può cadere lentamente, ma si cade. Il nostro è un paese in radicale decadenza, radicale, ed è molto di più di quello che dice il Censis, è molto più drammatico di quello che dice il Censis. E cosa deve... È un paese che le sue prospettive nel campo ricerca, sviluppo, industria fine, eccetera, eccetera, l'ha perduta nel corso degli anni 70 addirittura. Poi è andato avanti con il Made in Italy, è andato avanti con alcune imprese molto capaci di esportare, eccetera, eccetera, che però sopravvivevano anche grazie a meccanismi come la svalutazione periodica, le tasse che si pagavano e non si pagavano, eccetera, eccetera. Con l'Europa e con l'euro queste possibilità sono finite, e anche quindi questi settori sono in grandissima difficoltà, e se sopravvivono, sopravvivono grazie a decentramenti, eccetera, eccetera, e delocalizzazioni e così via. A questo si è innescata una crisi politico-istituzionale gravissima, la crisi internazionale ha moltiplicato per 100 tutti questi fattori, adesso siamo veramente col sedere per terra, mica nessuno se ne accorge, appunto si sopravvive. E cosa vuol dire sopravvivere? Ma soprattutto un organismo che sopravvive equivale a un organismo morto. Soprattutto che tipo di shock servirebbe allora a questo paese per evitare questa decadenza? Un grande shock politico, io penso, l'unico messaggio è questo, politico-culturale. Davvero una grande coalizione, ma davvero grande, cioè con prospettive credibili nei confronti del paese, era quello che sperava utopisticamente il presidente Napolitano dopo la botta tremenda che le forze politiche avevano preso alle elezioni della primavera scorsa. Lui si augurava questo, una reazione anche di orgoglio, dire no, adesso mettiamo insieme una grande coalizione che davvero metta da parte tutte le bagarre passate e le cose essenziali di riforme istituzionali, di interventi economici, riesca a farli in brevissimo periodo. Questo si è rivelata una perfetta utopia, quindi ora vediamo se il 2014 la congiuntura ci aiuta un po', e speriamo che il sopravvivere diventi un vivere alla meno peggio. In ogni caso, a un 25enne, a un giovane, lei cosa consiglierebbe adesso, vista questa situazione? Di lottare, di organizzarsi, evidentemente non sul piano dell'eversione farsesca, ridicola e parodistica tipo Forconi, di organizzarsi con i suoi colleghi, di guardarsi in giro per cercare di vedere di quale qualificazione ha bisogno per inventarsi il lavoro, sapere che nessuno più lo potrà assicurare, comunque vada il ciclo politico istituzionale. E veda, le do soltanto una statistica davvero precisissima, perché deriva da una ricerca in sede, e di grande significato. Dal 2008 ad oggi, cioè nel periodo della massima crisi, nella provincia di Venezia, anzi nell'ambito della città metropolitana, Padova, Venezia, Treviso, cuore del nord-est, dei miracoli, eccetera, eccetera, l'occupazione complessiva è scesa del 6%, ma l'occupazione in tutti i servizi, informatica, servizio alla persona, eccetera, eccetera, erogati da imprese tutte giovani e tutte piccole, neanche medie, ma piccole o piccolissime, in questi settori l'occupazione è aumentata del 17% in questi anni. Sì. E il giovane deve inventarsi il proprio lavoro. Lei è d'accordo se si può dire che questa è la prima generazione, o rischiamo di lasciare la prima generazione, nella quale si pensa al proprio futuro in maniera nel continuo progresso, nel miglioramento, in continuo miglioramento, come è stato nelle generazioni passate? Non c'è dubbio, questa è la grande trasformazione antropologica che stiamo vivendo. Dal dopoguerra, almeno dal dopoguerra, prima non era così, le generazioni che venivano fuori non nascevano in testa nel proprio DNA l'idea che sarebbero state meglio dei genitori, ma dal dopoguerra, cioè per 3-4 generazioni, è stato così. Le generazioni successive erano pressoché certe che la loro vita aveva prospettive migliori di quella dei propri antenati. Ma forse anche per questo, per la prima volta non è così, ma questo bisogna che lo introiettino i giovani, cioè non c'è più assicurazione possibile. Però vi è questa straordinaria possibilità di farselo, di essere fabbri della propria fortuna, voglio dire. Non troveranno il posto fisso, non ci saranno le partecipazioni statali, non ci sarà la pubblica amministrazione che compensa in qualche modo, la manifattura è a remengo, eccetera, eccetera. Tuttavia, nel mondo contemporaneo, la possibilità di crearsi il proprio lavoro esiste ed è un lavoro anche di grande soddisfazione. Ma la statistica che prima le dicevo è assolutamente indicativa. Certamente in zone in cui c'è un minimo di struttura, il grande dramma del nostro paese, veda, è ancora una volta sempre la questione meridionale, cioè un paese spaccato in due, sì, in tutte le cose. Cioè al nord queste possibilità che le dicevo per i giovani ci sono, al sud probabilmente no. In amplissime aree del sud, nella quasi totalità del sud, no. E così vale anche per l'evasione fiscale. Noi parliamo a vanvera di evasione fiscale in questo paese, lo continuo a ripetere agli organi di governo. Non si possono fare queste statistiche in generale, non si può fare la media, perché nella media del fiume alto, nella media di un fiume alto 12 centimetri, poi tu lì dentro ti anneghi. Non ha senso questo discorso di medie, perché si sa perfettamente che al nord, dal Po in su, l'evasione fiscale è, diciamo, a livello europeo, mentre è l'80% al sud. Ma non è l'80% perché al sud evado, non è l'80% perché il reddito al sud per metà è in mano a criminalità organizzata. E quindi questo è allora, il vero grande problema, rimane per questo. Dire, andiamo ad attaccare l'evasione e venire appunto nelle piccole e medie industrie del nord significa strozzare la gallina. Non puoi perseguitare delle persone che, ripeto, l'evasione media al nord è a livello tedesco, è a livello francese. E allora bisogna smetterla con questi discorsi di media. Il problema drammatico italiano è ancora la questione meridionale. Però, professor Cacciari, totalmente irrisolta. È forse proprio per questo, cioè che non si vede una generazione che può lasciare un futuro migliore, che le reazioni alla crisi sono anche un po' scomposte. Lei ha citato la questione dei forconi, cioè ci sono delle certo. La gente è disorientata, non sa neanche come reagire. Disorientata, queste prospettive che prima le dicevo esistono, ma certo sono per certe aree, in certi settori, in certe regioni. Per gente che ha una certa qualifica, per giovani che hanno potuto qualificarsi in qualche modo, ma è chiaro che ancora la maggioranza e soprattutto, ripeto, nel mezzogiorno queste prospettive non le ha, e quindi che la protesta sia appunto caotica, disordinata, scomposta, l'aggettivi come vuole, è nelle cose. Ripeto, mi auguro che vi siano dei segnali da parte del ceto politico, perché poi è da lì che bisogna partire in qualche modo, che dicano guardate che ci siamo, abbiamo delle idee, un minimo di maggioranza di coesione c'è per realizzarle, ecco, dare qualche segnale che dia una qualche fiducia, perché se no la crisi da politico e economica diventerà sociale, diventerà di ordine pubblico, lo sta diventando. A questo proposito, lei vede nella persona in cui tutti guardano con maggiore speranza, insomma, non so se solo nel centro-sinistra, ma anche comunque il paese si guarda, diciamo, in Matteo Renzi come l'uomo che potrebbe in qualche modo, anche da un punto di vista generazionale, garantire un qualcosa di nuovo, dare una novità, una scossa all'Italia. Lei vede la possibilità in lui? Bisogna assaggiarlo, insomma, il budino si prova mangiandolo, mi insegnavano i classici. bisogna assaggiarlo costui, non c'è dubbio alcuno. Che al momento i discorsi che fa, le pose che assume, il tono, lo stile mi piaccia, lungi da me, però bisogna assaggiarlo perché certamente è la novità, e quindi sicuramente per questioni generazionali, per questioni di carriera politica propria, autonoma rispetto alle nomenclature eccetera eccetera, una qualche fiducia la dà. Bisognerà vedere la squadra che si mette insieme, non mi pare che abbia intenzione di promuovere i propri migliori, ma insomma non importa. Però ripeto, Renzi c'ha delle forche caudine obbligatorie, cioè deve trovare l'accordo con Renzi e con Letta, permettere che Letta funzioni, lavori bene quest'anno, e non avere frette, non avere impazienze di sostituirlo, perché se avviene così, noi collassiamo nel giro del prossimo anno. E poi c'è un'altra forca caudina grande come una casa, cioè le elezioni europee, che tutti sottovalutano, invece sono questioni pazzesche, di importanza pazzesca, perché si sta profilando una possibilità per cui stravincano alle elezioni europee il fronte degli anti-europeisti più radicali, da Forconi a Lega, sì, a Berlusconi, a Grillo. E beh, certo, la campagna sarà tutta, la campagna proprio sarà su questo. Si presenta dopo le europee, a livello europeo, dove si decide tutto l'essenziale, con una sconfitta drammatica elettorale alle europee, e mandiamo a Strasburgo 3/4 di deputati, perché si vota con la proporzionale, anti-europeisti. Hai voglia che Renzi dica ho vinto? Hai voglia che Renzi sia credibile per fare il leader di questo paese tra un anno, tra due anni? Ma questo anti-europeismo lei un pochino lo condivide o lo capisce, e da cosa nasce? Ma lo capisco, è una follia pure semplice, ma è del tutto evidente per persone razionali che un'uscita dall'euro o il fallimento dell'euro sarebbe la catastrofe per questo paese, no? Verremmo assolutamente travolti, ma è in questa situazione politica poi, ma questo è palese, evidente. Quindi è populismo puro? È una prospettiva totalmente eversiva quella di dire usciamo dall'euro, sfasciamo l'euro, eccetera, eccetera. Però è chiaro che bisogna rifare questa Europa, è chiaro che questa Europa non tiene, è palese che non tiene. Un'Europa puramente burocratico-amministrativa, puramente in mano a regole ragionieristiche, è chiaro che è un'Europa che si sfascia, chiarissimo. Ma una cosa è dire questo e correre al salvataggio, una cosa è dire bene, si sfascia e ritorniamo alla lira. Questa sono prospettive. Sono posizioni ben diverse. Leggermente diverse. Senta, professor Cacciari, usciamo un attimo dalla politica. Mi ha colpito molto la vicenda quest'anno del cosiddetto metodo Stamina. Non voglio entrare nei particolari della vicenda, ma di fatto c'è una persona, cioè Maurizio Vannoni, che sostiene di aver trovato delle cure per malattie molto gravi. C'è il mondo scientifico in gran parte schierato a dire quest'uomo è un ciarlatano. È un po' l'annoso dibattito tra la ragione, il rigore della scienza da una parte, e il desiderio, il sogno di stare bene, di trovare anche delle magari cure miracolose, e spesso. Guardi, purtroppo così. In queste faccende sempre sono, che non me ne intendo, sì? Metto questo, ma sono sempre metodologicamente per gli scienziati. Perché sempre? Per la maggioranza di scienziati. Per il semplice fatto che fanno il loro lavoro, ma può darsi che questo Vannoni sia un genio, può darsi che sia un genio che abbia trovato tutto, ma la scienza ufficiale deve fare diga, deve fare censore, scherziamo? Cioè il grande rischio è che venga preso per genio deficiente. Questo è il grande rischio. Lui dice successe con Galileo, successe nella storia. Questo è il grande rischio. E la scienza ha sempre fatto questo. Se vuoi passare, devi fare un'enorme fatica. Se vuoi che la tua nuova teoria, se vuoi che la tua nuova qualsiasi cosa, la tua nuova innovazione venga accettata, devi fare un sacco di fatica, devi passare attraverso 100.000 prove. Questa è così, va avanti la scienza, ci mancherebbe altro. Ma perché l'uomo? Se la comunità scientifica dicono che questa che questo metodo, che questa procedura, che questo protocollo non funziona, sì. E beh, il signore invece è d'accordo, invece è convinto, si dia da fare, provi, riprovi, cerchi di convincere. Ma perché le chiedo... L'innovazione scientifica, sia nel campo teorico che pratico, procede così, e ci mancherebbe altro che non procedesse così. Però le chiedo questo, Cacciari, perché l'uomo pensa sempre che si debba stare bene? Perché non c'è il senso di voler accettare la sofferenza fisica intanto? Perché il nostro cervello, che è un pezzo di cosmo finito, pensa all'infinito. E quindi pensando all'infinito pensa all'immortalità, pensando all'immortalità vuole essere immortale, eccetera, eccetera. E questa è una caratteristica del nostro cervello. Siamo l'unico animale che pensa alla morte, ma nel momento stesso che pensa alla morte pensa anche all'aldilà, no? E pensando l'aldilà è l'infinito. Noi nel momento stesso che pensiamo di essere mortali, anche se non ne siamo coscienti, pensiamo un al di là, pensiamo un mondo al di là, perché diciamo questo è un limite, ma una volta che disegno un limite, nello stesso tempo presuppongo un oltre il limite, che è infinito, illimitato. Il nostro cervello funziona così, è un pezzo di cosmo finito che pensa all'infinito, un paradosso, una contraddizione, dobbiamo tenercela. L'ultima domanda è questa: qual è per lei l'evento del 2013 e quello che invece non vorrebbe che si riproponesse più nel 2014? L'evento sicuramente è Papa Francesco, le dimissioni di Ratzinger e Papa Francesco, quello è l'evento, cioè, non ci piove sopra. Nel 2014 non vorrei che si ritornasse a votare. Almeno in Italia. E soprattutto non vorrei che succedesse qualcosa al presidente Napolitano, perché andare a votare già sarebbe una sciagura, ma si immagini lei se si dovesse ritornare a votare il presidente della Repubblica. Beh, a 88 anni e poi terzo mandato, no. 89. 89 e terzo mandato sarebbe, come dire... Poi no, no, appunto, no, beh, terzo mandato evidentemente non esisterebbe, ma ci immagini lei. La ringrazio molto, professore. Grazie, a lei, buona giornata. Buona giornata. Grazie davvero di questa chiacchierata e finiamo qui con 24 Mattino. Oggi ci siamo prolungati fino alle 9.30, come succederà anche nei prossimi giorni. 24 Mattino rimane, non ci sono io, mi prendo qualche giorno di vacanza per quel che mi riguarda. Tornerò qui a Radio 24 martedì 7 gennaio 2014. Che devo dire, mi devo prolungare in queste cose, auguri di fine, no. Vabbè, auguri, punto, e ci ritroviamo martedì 7 gennaio.